corrono, giocano, ci vogliono bene. Sono felici con noi. Da oltre 50 anni Monge nutre i vostri amici a quattro zampe con ricette di qualità, senza coloranti e conservanti. Bocconi cotti al forno e crocchette con carne fresca. Monge, la famiglia italiana del pet food. Cari italiani, questo è un messaggio a reti unificate dell'anziano Claudio Capelli Ceretti. Va ora in onda Un giorno da pecora, condotta dal simpatico Giorgio Lauro e dalla simpatica Geppi Cucciari. Un giorno da pecora, la trasmissione di Radio 2 che arricchisce l'animo, la mente e il cuore. Ascoltatela. Simpatico Lauro su Radio 2 e cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 2. Noi adesso andiamo direttamente a Bruxelles, dove dovrebbe essere in collegamento con noi Davide Sassoli, vicepresidente del Parlamento Europeo del Partito Democratico. Signor Sassoli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dov'è signor Sassoli in questo momento? Siamo in Parlamento da stamattina a seguire, diciamo, la storia di questi attentati che ancora, diciamo, non sappiamo se sono terminati. Poco fa c'è stata una notizia che arrivava da un campus universitario, lo hanno fatto evacuare proprio qui vicino, in un quartiere a destra, perché qui i quartieri sono tutti vicini, sono tutti centrali, non sono le pallier, le periferie lontane. Stiamo parlando del centro della città. Hanno fatto evacuare questo campus universitario, non sappiamo se per segnali oppure per precauzione. Certo, senta, signor Sassoli, questa mattina all'ora degli attentati lei dov'era? Io stavo arrivando in Parlamento presto ed era tutto bloccato, c'è stato diciamo una tentativo, diciamo, di isolare delle istituzioni europee, perché come sapete alle 9 c'è stato alla metropolitana, che è proprio qui vicino, alla fermata di Malbec, è usata da tutti, da parlamentari. Lei com'era arrivato in Parlamento? Io sono arrivato con un mio amico che abita vicino e che mi è passato a prendere con la macchina. Perché... Ma adesso siete bloccati nel Parlamento o no? No, non siamo bloccati. Cioè, potete siamo uscire bloccati. Dagli uffici o no? Sì, no, io sono uscito anche di un po' di fiori fa dal Parlamento, certo c'è una presenza militare importante, ma è facendosi riconoscere con il proprio legge, la propria identità. Ecco. Ma come sempre questo è cambiato qualcosa. Siamo qui in compagnia di Corradino Mineo, 4 su 4, diciamo il livello più alto possibile. La metropolitana è la fermata della metropolitana di Malbec, quella che è vicino al Malbec europeo, è quella che lei usa. Ed è sempre un giorno da pecora, Corradino simpatico Lauro su Radio 2. Quando vengo in metropolitana su Radio 2 oggi con noi c'è Corradino Mineo, senatore del gruppo Misto. Stamattina sentivo anche che la differenza che c'è tra infiltrati mentre l'ISIS no, quindi non ci sarebbero modalità di avere delle informazioni da Didenko, che è un gruppo molto chiuso quello che ce l'ha. Non è vero, perché abbiamo ormai, noi stiamo parlando in questo momento con una linea fissa o con un telefono cellulare? Stiamo parlando con il cellulare italiano, perché le linee belghe sono pentiti, sì, certo, classici pentiti si può usare persino quell'angolo naturalmente deve essere usata nella combattimento per la che magari deve dimostrare bestemmia, niente, senza parole. La guerra di Colomba dire che loro presentava la speranza tanti anni fa. Queste cose le dice il nostro padre, la guerra di Spagna, un faro di realismo, un senso nel mondo. WhatsApp funziona ancora, è una volta che WhatsApp è utile. Torniamo a Bruxelles. Marco Zanni, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, dov'è il signor Zanni in questo momento? Quelle funzioni. Senta, signor Sassoli, lei che è vicepresidente del Parlamento europeo, lei ha detto che è difficile non pensare che gli attentati sono arrivato stamattina. Oggi, affermando tutti i nostri diritti, l'errore è Guantanamo. Se tu fai Guantanamo, quelli di 5 Stelle lavorano prima dell'arresto di Abdeslam. Prima delle 8 era già. Ma ecco, noi non sappiamo se questi attentati o probabilità quando abbiamo abituato prima degli attacchi. Ma ha sentito qualcosa o ha preso dalla notizia? No, non ci dobbiamo abituare, perché noi dobbiamo rivendicare la libertà delle nostre città. Come non ti puoi abituare al fatto che sparino su Sarajevo? Sai, non è che tanto diverso. C'era un conflitto di campagne arretrate contro le città. Sarajevo era una clara la libertà di tolleranza, di persone che stavano insieme. Qualcuno da lassù sparava. Non ti devi abituare a questo, devi combatterlo aprendo le porte, prendendo delle precauzioni. Come è arrivato stamattina al Parlamento? Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia, lei non è a Bruxelles perché stava per partire, ma è stata fermata. È già uscito. Sì, sono stata fermata da un impegno istituzionale a Roma, altrimenti sarei arrivata proprio con l'aereo delle 8. Rimanere all'interno di Arena. Proprio l'indovino mi disse di Tarzani, non si salita su quell'aereo per puro caso. Sì, no, infatti quando ho visto quelle notizie. Perché secondo lei non sarebbe successo? Poi aveva paura ultimamente quando andava in aereo a Bruxelles. Ma guardi, io sono assolutamente convinta che bisogna andare avanti. Sicuramente può esserci la paura, però cerchi di non pensare. Secondo lei è mancata una coordinazione nel gestire i controlli in questo periodo? Comunque già delicato. Ora uscire in questo momento e tra l'altro è stata una guarda la centrale nucleare a ieri, cose che insomma si sentivano sempre un po'. Si sentiva nell'aria, uno anche dei luoghi che poteva essere maggiormente colpito era il Parlamento e anche la Commissione, quindi anche la massima allerta noi l'avevamo anche trasmesso su questo. Ma era cambiato qualcosa dopo i fatti di Parigi o dopo l'arresto di Salam? No, non molto. Devo dire l'intelligence del Belgio avrebbe detto in entrambi i casi dopo arresti di questi giorni, c'era la massima allerta, ma no, è tornata una normalità. E italiani. Secondo me quello che Zanni, ma lei ha paura oggi uscire veramente di unire le c'è un po' di unità dentro il Parlamento europeo che non va mai d'accordo su niente ad avere persone che possono avere non perché sono dei palazzi moderni ma perché rappresentano che notizia è lei da Bruxelles? Ma guardi, ho sentito poco fa i colleghi spazi geografici. C'è la domanda che fanno tutti, come è possibile che sia successo questa cosa Bruxelles, secondo voi abbiamo preso tutti alla sprovvista? Io parlo poi di quello che stavo dicendo, leggere in profondità i fenomeni è molto difficile prevenire, certamente è complicato, ma se non si hanno gli strumenti adatti, potrebbe esserci magari un trasferimento di un'impotenza. In questo momento l'Europa ha a pensare che la sicurezza e la prevenzione siano delle priorità. L'ultima cosa è lei dov'è nel suo ufficio in questo momento al Parlamento europeo? Ha una finestra, vede qualcosa davanti, cosa vede fuori? Lei tornerà a Bruxelles? Guardi, io sono uscito un paio d'ore. Ma soprattutto nel quartiere di Molenbeek o dappertutto? Ma le fermate di Molenbeek e Schuman tu le utilizzavi per andare a lavorare? Ma guarda, sono a 300 metri da casa mia, non so come dire. Dove quella di Schuman? Senta, signor Zanni, voi di 5 Stelle avete sempre una posizione non riuscire, anche se adesso hanno dato via libera per andare a prendere i bambini a scuola. Grazie. Grazie come eurodeputata di Forza Italia in Italia e in Italia come si fa in questi casi? Ma lei quando torna in Italia come? Si riprende? Io ero a Parigi il 13 novembre e con la mia bambina di 13 anni, la ragazza di 13 anni. Sì, è stata anche dura perché eravamo al cinema a vedere il film di 007 in macchina, forse in macchina. staccato il telefono tutta l'Italia. Non si può dire alla radice, cosa intende la radice? Non mi sono occupato, sinceramente, però se abbassava il livello della voce si parlava solo di Sassoli. Grazie, vicepresidente del Parlamento Europeo del PD, grazie, questa è Radio 2, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non sa come parlerà Sassoli in Italia. È sul pericolo che parlerà, però io il giorno dopo prenderò la mia. Però invece quando l'italiana chiede di evitare gli spostamenti, ci sono dei momenti, i primi momenti. Ma voglio dire, io faccio un giornalista da una vita, la notte, la mattina dopo, sapevo che esisto. Dietro l'Isis ci sono gli Stati Uniti d'America. Sempre una risposta speciale. Che qualunque volta in un luogo pubblico succeda qualcosa, che fanno vivi. No, io vivo. E vivo proprio perché voglio combattere questo orrore. Continui per contrattare la bomba adesso l'ultima all'ospedale San Pierre sempre a Bruxelles, ovviamente in questi momenti questo è inevitabile, quindi alla radice la libera è una società di mattoni. Allora c'è un'amplificazione formidabile, alla radice cosa vuol dire questo? C'è un po' come ma noi spesso amplifichiamo, questo è assolutamente sbagliato. Ma i francesi, posso dirti, i francesi, se tu apri le squadre, tu vedi dei titoli molto meno gridati, questo modo di fare è migliore secondo me dello strillare contro i social. Ad un certo punto ti faccio un altro esempio perché è importante, in Francia qualcuno pochi giorni, due giorni dopo ha tentato il 13 novembre erano scoppiate delle lampadine la gente si è messa a correre scappando, le televisioni italiane lo davano come se fosse successa la fine del mondo, fosse un attentato. I francesi no, ero al telefono con colleghi italiani, dicevo guardate state tranquilli, non è così, ci hanno bloccato la metropolitana, c'è un altro attentato alla metropolitana, no, hanno fermato perché c'era un pacco bomba. Allora invito anche alla responsabilità chiunque ne parli, perché noi amiamo talmente tanto la nostra bella libertà che la vogliamo preservare. Senatore Mineo, grazie, lasciamo andare al Senato. Grazie a voi. Ma anche dei calati assolutamente bene, tantissime cose, poi si può discutere di più, si può discutere meglio. Per esempio della Libia vorrei discutere in Parlamento, non per dire mai a nessun intervento, ma per capire quale, in che maniera, come usiamo i nostri soldati, le nostre forze, però bene. Grazie, dopo Parigi, il gruppo misto buona lavoro. Andiamo a Bruxelles, dove c'è Daniela Aiuto, deputata per l'Italia 5 Stelle. Signora Aiuto, buongiorno. Noi avevamo rientro, dove si trova in questo momento? Sicuramente l'aeroporto è chiuso, le strade sono bloccate, a partire dal resto che alla Gare du Nord. Quando siamo arrivati dentro, praticamente da tutte le porte, complicato, sono prima e pensiero dove sei, intervenendo il signor Dani, eurodeputato del Movimento 5 Stelle. Signor Mineo, c'è stato lei uscita, ha visto qualcosa? Non sono ancora uscita, ma chi è uscito del mercato mi ha parlato di strade diverse, reale, momenti così non si possono fare, infatti noi stiamo vivendo una situazione di imperialismo, i voli che avevamo per entrare in Italia e ci siamo dedicati a organizzare tra l'altro c'è un aiuto di tutta la città, lei abita proprio di fronte alla sede del Parlamento. Io abito praticamente di fronte al Parlamento e infatti stamattina proprio nel tragitto che ho fatto a piedi da casa al Parlamento è stato proprio in quel momento che ci sono state le decisioni nella metropolitana, è proprio quindi in un orario in cui ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio 2 e cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 2, ci ha raggiunto in studio con noi oggi Corradino Mineo, senatore del gruppo misto e grande giornalista. Ciao Mineo, buongiorno. Buongiorno. È più stupito, scioccato, sorpreso degli attentati. tanti di oggi a Bruxelles. Se lo immaginava. La sua casa è stata sì, evacuata. Bisogna batterli sul terreno, perché non si poteva verificare. Tutti gli scienziati che sono seriamente di difesa di Sala dicono che i kamikaze non vengono da un generico disagio sociale per i terroristi. Sono persone che vivono un disagio spesso psicologico. Significava che il martire che si convertono a questo siano andati ad evacuare, però non glielo so dire con certezza, perché appunto non c'è nessuno a casa mia, quindi nessuno può riferire. E poi fanno un viaggio iniziatico lì prima di diventare kamikaze, quindi a testa del serpente la schiaccia. Io non penso che dobbiamo andare sotto braccio. Sono i corpo, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle di fronte con Assad, che in risposta agli attacchi terroristici iracheno alleato dagli americani possono vincere la guerra? Come si reagisce, come si risponde, come si risolve questo problema? Eliminiamo il lato ambiguo, cioè la zona grigia, per esempio la Georgia Sardegna, il principe Sardegna ha avuto legion d'onore dall'Olanda, due giorni, tre giorni. Per esempio la Turchia, che invece pronti, di combattere la Grecia, abbiamo mandato l'ordine. Sì, voglio dire, c'è noi da nostro in carcere, abbiamo registrato questi video, e combatte i curdi che combattiti all'Islam radicale. Io non sono per la guerra, sono contro la guerra, sono pacifista, ma questa cosa qui bisogna gente che odia. Ma ascolti, ma lei non pensa che adesso questi fatti di oggi da qualcuno vengono utilizzati anche per ricriticare anche l'apertura della Merkel rispetto ai migranti, che bisogna sovrapporre le due cose? Questo avviene comunque. Il problema in questo mondo è troppo l'azione populista. Quando tu li chiami possono parlare, deriva dal fatto che hanno fatto meglio questo disastro. Non immagino più una bomba della metropolitana, poi sono andati a aspettare per tutti i posti più accessibili, che è vero, ha innalzato le qualunque tipo di immigrazione, perché non è disposto, dove non c'è nessun controllo, tra l'altro, quindi può arrivare chiunque. Su questa storia cosa vuol dire? Grazie, ma secondo lei c'è questo rischio che possa accadere una cosa del genere? Quando io andiamo a prendere per uno nostro questa volta a Bruxelles alle 16:30 sulla 2, uno speciale di Caterpillar, un sorriso, diciamo, l'assista è diretta. Domani dobbiamo unirci alle 16:45. Poi voglio vedere se qualche programma che meno male, però il problema è dell'immigrato, del disprezzato, del disprezzato. Affrontiamo questo problema vivo. Torniamo a Bruxelles. Fulvio Maltese, un deputato per l'Altra Europa, per Zifra, scrittore di economista. Buongiorno, signor Maltese. Buongiorno. È una bestia chiusa Dio per reclutare dei bambini e farli uccidere alla loro volta è fuori. Questa è la prima risposta da dare. Il nostro disprezzo per una cultura di morte simile a quella del nazismo, intollerabile e inesistente, che non può vivere. La seconda questione sono il coordinamento delle polizie. Basta, cioè quello che diceva Sassoli, un'intelligenza europea. Le polizie, sì, ma chiamiamola così, le polizie europee si devono coordinare, mettere insieme tutti i dati. Invece ognuno fa gara contro l'altro. No, è evidente che nella storia di Parigi i francesi, cioè addirittura c'è... E c'è molta paura. Sì, lo posso dire perché l'ha pubblicato. È stato per lungo tempo corrispondente della Rai. Comunque questa cosa l'ha pubblicata il New York Times in qualche modo, quindi la posso dire. C'è un documento riservatissimo dell'intelligence francese che racconta come secondo loro si è costruito l'attentato del 13 novembre. E allora è evidente che la spesa maggiore. Qual è l'immagine sua, l'immagine che ha visto lei? Organizzare tutto dal Belgio, contando e sapendo che la polizia belga e la polizia francese non collaborano. Poi hanno speso tanti soldi per falsificare benissimo i documenti. E la terza cosa sono le armi. Sono degli smandrappati questi terroristi, per nostra fortuna, ma su alcune cose non bisogna sottovalutarli, quelle che ho detto. Anche l'intelligence non scherza dal punto di vista. Allora, per esempio, la capacità di mettere insieme le polizie, ma l'intelligence sono sempre le spie, perché vedi, ci tengo a queste cose. L'intelligence, allora, l'intelligence francese collaborava con l'intelligence americana e cercavano i foreign fighters prima che andassero in Siria, ma dei foreign fighters che stavano in Francia gliene importava di meno. Così si dà il caso che delle persone schedate non fossero seguite per l'attività in Francia, ma solo se si muovevano per la Siria, e hanno fatto gli attentati. Quindi io dico, mettere insieme le polizie e costruire un pool europeo, come si è fatto in Italia contro la mafia, di magistrati. Ma perché non si parlano? C'è un motivo per cui secondo lei non si parlano? Perché l'Europa è una scommessa che rischia di fallire, perché gli Stati nazionali, ma lo vedi al Consiglio europeo che succede, gli Stati nazionali si comportano difendendo solo il loro particolare interesse ed è una linea sciocca. Litigano di più che il centrodestra a Roma. Sì, è una linea sciocca perché non c'è un interesse, sulla questione per esempio del terrorismo, non c'è un interesse di uno che non è dell'altro, cioè il mondo è talmente cambiato, le frontiere sono talmente cadute che questa logica per cui tu sei eletto dal tuo paese e fai gli interessi solo del tuo paese e sei guardingo nei confronti degli altri vicini è sbagliata. Torniamo a Bruxelles. Fabio Panzeretti è proprietario e gestore dell'osteria agricola toscana e si trova a quanti metri dalla fermata metropolitana di Melbeck? Le operazioni di polizia fatte a Molenbeek. Da una centinaia di metri dall'altra, siamo a volte penso all'angolo che dovremmo, invece che ingaggiare, siamo rimasti dentro alla zona russa di fatto. Il ristorante è aperto? No, il ristorante è chiuso, siamo tutti chiusi lì e non può girare nessuno. Signor Panchetti, secondo lei si capisce che lei non è belga, ma l'accento è utile perché toscano, in queste aree di dove sono Panchetti? Ci può dire stamattina a che ora è arrivato al suo ristorante e che cosa ha visto? Di non entrare in cambio di una il problema è stato garanzia io e Barbara, mia moglie, siamo fatti di raccassa. Signor Maltese, in una giornata come questa avrebbe dovuto fare solo il giornalista o è contento di essere lì come rappresentante delle istituzioni come Europa parlamentare? Per l'attentato all'aeroporto pensavate che fosse? Esatto, l'attentato all'aeroporto. Quando siamo arrivati a Bruxelles, che è di fatto la strada dell'osteria, ma sa, poi è difficile perché Molenbeek è stato una specie di turismo internazionale di giornalisti negli ultimi mesi e non è venuto fuori nulla, perché sarebbe interessante capire quali sono, cioè lì c'è un'organizzazione delle cellule molto radicali che usciva dalla metropolitana. Che è difficile dall'entrata principale della metropolitana che è di fatto andando in giro a chiedere alla gente che naturalmente non ti dice la verità questo della fermata di Melbeck. Cosa vede fuori dalla finestra del suo ufficio in questo momento a Bruxelles? Anche se andavamo contro tutta la gente che stava alla lotteria ci siamo messi in lotteria, abbiamo chiuso la porta perché qui hanno fatto gli attentati alle due fermate. Siete ancora là? Parlamento, sì, sono Malbec e Schumann, e quindi non ci fanno aprire le polizia, poi c'è una cosa. Quindi al momento non potete uscire perché c'è la zona è totalmente sotto controllo della polizia. Ma avete provato a uscire? Avete chiesto il sole? Siamo il sole invece, no? Il tempo fa? Com'è il tempo? Il tempo si è uniformato, quindi chiusi dentro senza sapere quando ma come sempre. Signor Battese, grazie. Qual è il piatto? Arrivederci. Buono che fate. Posso dire una cosa anche a questo? Io sono un ottimo giornalista, il giornalista rimane sempre il giornalista. Ha ragione. Provi a offrirla, provi a fare le poliziotte, magari a di pranzo. No, il super Gisello. Ma devono mangiare anche loro che sono là. L'ultima cosa, perché dalle immagini che si sono viste della metropolitana di Malbeck, sembrava non sono viste molte persone correre fuori con grande panico. Invece lei dice che c'era tanta gente che correva fuori. L'apparenza piccola borghese del quartiere è quella strada quando diciamo in mezzo alle già case allora questo mondo bravo allora per fortuna non lo si esercita. Questa Radio 2 e questo Giorno da Pecora è l'unica trasmissione con il controllo e sono oltretutto molto più vicine alla via alberata, diciamo tu. Esatto, nella via alberata. Tra l'altro adesso dicono che la polizia ha fatto esplodere un veicolo sospetto, lei non ha sentito niente? Sì, si è sentito la botta. No, qui sembra essere in guerra, ragazzi. Sì, ma lei ha sentito un'esplosione poco tempo pochi fa? Pochi minuti fa? No, quella di pochi minuti fa, no, perché era il telefono. Ma ce n'è stata una ancora prima che è sempre... Dice, cioè, i poliziotti hanno fatto esplodere un altro, sembra un oggetto, un ordigno. Intorno a che ora questo è successo? Una mezz'oretta fa. Ah, sì, è possibile che sia. Grazie, Fabio Panchetti dell'osteria agricola. Saluti Barbara, di Bruxelles. Stia vicino. Saluto Barbara. Esatto, grazie, arrivederci. Questa è Radio 2, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la pappa al pomodoro.